ore 15. Radio Città Fujiko è lieta di presentarvi Easy Pop. Conduce in studio Franco Paoletti. Regia del Bolognese Volante. Freddissimo fuori, però insomma siamo caldi dentro, caldi soprattutto per la musica che andremo ad ascoltare. Buon pomeriggio a voi dalle frequenze dei 103 e 100 in modulazione di frequenza. Chi vi parla è Franco Paoletti, al di là del vetro il nostro bolognese volante. Buon pomeriggio a lei. Cucù. Abbiamo detto che insomma oggi si apre una nuova puntata di Easy Pop, appunto puntata numero 4 di domenica 29 gennaio 2023. Easy Pop 100% musica indipendente per menti libere. Andremo a scartabellare le uscite discografiche e quant'altro, insomma andiamo un po' più a fondo nel mondo musicale e andiamo a scoprire anche talenti che ovviamente tante volte non passano, non ovviamente, però insomma tante volte fanno fatica a passare sui network, ma ci siamo noi, ci pensiamo noi a dare spazio e parola ovviamente anche ad altri artisti che insomma magari non affollano il festival palco del Festival di Sanremo e non per questo sono meno bravi, vero? Ho detto Sanremo, le disturba qualcosa? No. Va bene, allora sorvoliamo questo argomento e vediamo di dare parola invece e voce agli artisti di questa settimana. Sono sempre tanti, noi facciamo anche un po' fatica a selezionarli tutti e lasciamo anche fuori ovviamente tanti altri, non ce ne vogliono, ma insomma piano piano la nostra emittente dà sempre spazio a tutti e quindi un posticino sicuramente lo troveremo. Abbiate pazienza e fede. Allora, oggi una puntata molto ricca di anche ritorni musicali che mi fa immensamente piacere. Iniziamo immediatamente con il primo che abbiamo selezionato. Chi abbiamo, regia? Edoardo Palamara. Edoardo con la U, vero? Perché non vorrei dire Edoardo con la O. Palamara, giovane cantautore romano che abbiamo già assaporato un po' di tempo fa. Lui praticamente è giovanissimo. Abbiamo già sentito, assaporato nel senso, abbiamo ascoltato da queste frequenze. Quindi, nel senso abbiamo. Già capito insomma la voce, il suo timbro, quindi l'abbiamo già valutato ed è ritornato con un nuovo singolo. Sì. I nostri sbagli era il suo primo singolo del nuovo lavoro che sta licenziando e quindi che dire, lo ascoltiamo? Certo, è già pronto. Esatto, allora I nostri sbagli, Edoardo Palamara. Vorrei fare a meno di te. Ho buttato nel cesso la parte peggiore di me. Se vuoi, parliamo un'ultima volta. Insultiamoci ancora, sputiamoci addosso la rabbia. Che poi tutto passa, anche questa guerra ci ha cambiato la faccia. Quello che resta sono troppe parole che risuonano in testa. Noi sì, abbiamo fatto troppi sbagli, bruciati vivi i nostri sogni, finalmente te ne accorgi. Se vuoi, dimmi tanto non ce la farai, prima o dopo te ne pentirai. E forse è vero, ma non tornerò mai. Vorrei parlare meno di te. E dalle macerie rinasce una parte di me. Ora ti guardo un'ultima volta. Con il trucco che cola e una lacrima sulla tua guancia. Che poi tutto passa, anche questa guerra ci ha cambiato la faccia. Quello che resta sono troppe parole che risuonano in testa. Noi sì, abbiamo fatto troppi appassionato della musica cantautoriale italiana, si accosta proprio alla musica italiana con questo intento, e devo dire insomma che come cantante ci sa fare, una voce ben decisa, un bel timbro, e l'abbiamo risuonato dopo appunto aver ascoltato qualcosa di suo nel passato. E quindi complimenti per questo nuovo EP, perché oggi non si fanno più appunto i dischi completi come una volta. Sam mi sta ascoltando, la vedo un po' distratto. Scusi, io devo fare il mio lavoro, mica sì, devo la vedo ascoltare distratto. Lei. Come gli mai? Ascoltatori devono ascoltare. Va bene, io. Comunque non si usa più fare l'album, ma un EP, e quindi di EP e EP in EP poi si arriva a una raccolta, a una best. Beh, un EP non è più l'LP, ma un mezzo LP, ecco, l'investimento arriva LP, fino a un LP mezzo. Parziale. Esattamente, poi se va bene, poi ci si reinveste. Cercare cos'è un EP dopo. Va bene, benissimo, io invece vado a presentare il prossimo personaggio, che è curioso, fa capo a Rodari. Quest'anno non si è mai smesso di parlare di questo incredibile scrittore, creativo e insomma critico giornalistico, non solo, Rodari, che a cui questa volta prende il nome e si ispira il barone Lamberto. Questo è praticamente un suo racconto dal quale poi quest'artista ha preso il nome. Il barone Lamberto quindi ci presenta Ho fatto pace, poi vi racconterò qualcosa di lui. Non andate via. Come stesso sono onesto, ora sono più leggero. Ho fatto pace con lo spettro, col riflesso di quello che poi non ero. Preso a pugni lo specchio, confesso, fino a sanguinare davvero, che ti fai del male quando sei troppo sincero. Ho fatto pace con la mente, ma nel mentre quanto tempo che ho perso. Ho fatto pace con la gente, è evidente che non sono diverso. Me la prendevo col mondo, con il destino avverso, ma poi ho capito che non c'è verso, che la vita non sta in un verso. Hey. Ogni tanto è così e mi viene da ridere, a pensare a quanto si sta bene qui, a preoccuparci di vivere. Ho fatto quello che mi ha fatto male, ho fatto pace con tutto il mio disordine, ci ho fatto pace perché non lo potevo odiare senza odiare una parte di me. Ho fatto pace col passato, non ci litigo più, troppe volte mi ha pestato con le sue golden goose. Ero immerso nel pantano, urlavo, mi agitavo, ho chiuso gli occhi, ho respirato e già nuotavo nel blu. Ho fatto pace con le mie paure, con i miei limiti, con le scottature sotto al sole di Rimini, con le frasi fatte di quei cinici che mi stanno sulle palle perché siamo simili. Ho fatto pace con i lividi, che sono il prezzo di certi brividi, di certi vizi di cui non ti liberi mai. Ho fatto pace con quello che mi ha fatto male, ho fatto pace con tutto il mio disordine, ci ho fatto pace perché non lo potevo odiare senza odiare una parte di me. Mi sentivo incastrato, ero sempre incazzato, uno strano obiettore con la guerra nel cuore. Ho spezzato quelle catene perché dopo tutto mi voglio bene. E ho fatto pace con quello che mi ha fatto male, ho fatto pace con tutto il mio disordine, ci ho fatto pace perché non lo potevo odiare senza odiare una parte. Il barone Lamberto, ho fatto pace. Beh, sempre bene fare pace, Paolo. Assolutamente sì, il barone Lamberto, il vero nome è Ceire Yusuf Abu Kar Isaf, spero di aver pronunciato decisamente. È un cantautore italo-somalo di Modena ed è stato già pianista per Cisco, che l'ha voluto nel suo tour. Cisco, lo ricordiamo, era un ex membro dei Modena City Ramblers, ma non solo. Insieme ha lavorato lui insieme a Luca Rossi, già degli Us Mamò, e non solo, insomma, è stato in contatto con Beck Hansen, ovvero sia Beck, insomma viaggia nel mondo musicale ed ha proprio suo apporto come pianista, devo dire che è bravissimo. La sua proposta fonde un po' il folk, il rap, il trap, il rock indie e ha vinto diverse manifestazioni e insomma si è messo ben in luce fino ad arrivare proprio a dei veri EP o LP, e questo è il suo nuovo singolo che abbiamo segnalato a voi, devo dire ci è piaciuto molto. Poi anche un diciamo un soprannome davvero interessante e ricco di rimandi, appunto il barone Lamberto, e che dire, se sono rose fioriranno, no, lo dico e non lo nego. Basta con le rose, mi basta. Scusi, perché mi vuole imbavagliare, mi dica perché. Intanto EP vuol dire extended play ed è un disco musicale o supporto digitale, musicassetto, quant'altro, la cui durata è superiore a un singolo ma inferiore a quella di un album, quindi aveva ragione Paoletti. Sì, certo, bravo. Che ha ragione, mi dà lei non mi crede mai e io va davanti Paoletti, reclamerò alla sperda, redazione sì. Telefoni alla redazione, alla polizia dei redazione. Conduttori insomma dai, allora dai. La prossima Blu Mosso ci presenta La battaglia di Svevia. Sopra i polsi come i chiodi di Gesù. Più in basso di così non si può cadere più. Dovevi dirmi che un errore si paga come l'affitto, la benzina e la spesa. Certe parole ti feriscono meglio di una pistola che ti prende di striscio. Ti penso spesso però poi non lo dico, che questo orgoglio proprio non me lo invidio. Ti ho dato un bacio sulla guancia gelata, ma sono scappato travestito da Giuda. Ed io da sempre nuoto nella culla, quando finirà? Sto iniziando a credere che non sarò mai veramente io se non rinuncerò ai privilegi che ora ho. Dovevi dirmi che un errore si paga, che non esiste la battaglia di Svevia. Un interessante percorso artistico quello di Blu Mosso che abbiamo ascoltato. Blu Mosso è anche uno scrittore, lo sapevate, artista, l'artista ha pubblicato due romanzi, debutta nel 2015 con Spremuta d'arancia a mezzogiorno e poi è seguito Schiena cucita qualche anno dopo. Nei suoi lavori editoriali ha creato questo personaggio che si chiama Carlo Berassi, che è un po' il suo alter ego, e sono due anche gli album, se non sbaglio, pubblicati nel frattempo, e devo dire che comunque si è dato molto da fare, tant'è vero che insomma non è nuovo il suo nome agli addetti ai lavori, e soprattutto lui presta insomma la sua lancia, diciamo così, praticamente ad altri artisti, adesso non mi ricordo quali perché l'ho letto velocemente stamattina, però insomma in queste... Vabbè, insomma, diciamo che anche gira un po' insomma con altri artisti, quindi sì, si sta facendo, se non altro anche scrive canzoni per esempio per i giovani artisti, tant'è vero che una sua canzone è andata anche al Festival di Sanremo, quindi complimenti, e come dico anche qui, se no, sono no, rose no, no, fioriranno. No, Vengo lì che le tappo la bocca. Va bene, ma perché non posso dire questo motto? Mi sembra che dia tutto. Ma lo dice 100 volte in trasmissione. Lei mi lasci dire, insomma, mi vuole imbavagliare. Ho già capito. Che siamo in un vivaio. Vabbè, presento la prossima. Bravo. Eliseo ci presenta Mille litigi. Sono rotto il cazzo. Se tu mi conosci, ma non mi capisci. Ah, ed io con te non parlo più. Mi sento solo stanco, che ho perso la testa tra mille litigi. Ah, ma tanto è tutto inutile. Guarda la strada, oppure smetti di guidare. Sei sempre distratto, troppo diretto, finisci come tuo papà. Cambiare casa purtroppo non ti aiuterà. Forse è un azzardo, ma è sempre un inizio. Io sono uguale a mio papà. E non lo so se sia giusto, mica dici davvero. E non lo so a cosa punto, però faccio sul serio. Mi sono rotto il cazzo. Se tu mi conosci, ma non mi capisci. Ah, ed io con te non parlo più. Mi sento solo stanco, che ho perso la testa tra mille litigi. Ah, ma tanto è tutto inutile. Guarda, c'è l'alba, ma a te non sembra di volare. Se stai così fermo, coi piedi per terra, come potresti mai capire? Mi sono rotto il cazzo. Se tu mi conosci, ma non mi capisci. Ah, ed io con te non parlo più. Mi sento solo stanco, che ho perso la testa tra mille litigi. Ah, ma tanto è tutto inutile. Eliseo, si chiama così, Eliseo è proprio il nome di questo protagonista, nato a Caserta, bambino esuberante, cresce insomma nell'adolescenza fino a che si trasferisce per studio. Sì, è un pippo qua, come si suol dire. Praticamente si trasferisce in quella di Roma, studia cinema, si occupa poi di musica e poi con la pseudonimo di Toast praticamente ha alcune incisioni, licenze appunto questi brani musicali e poi insomma fino ad arrivare al suo nome Eliseo con questo singolo Mille litigi. Insomma, ha cambiato anche un po' genere musicale e si dà insomma questo genere più trap house, non so come definirlo. No, urban, so perché non me ne urban direi. Poi potrei fare un lapis, come direbbe va lei. Bene, allora mandiamo avanti la prossima. Ah, qui viene un suo amico. Cioè, chi? Un suo amico. Chi? Un personaggio che già conosce. Ma chi? Moreno del Signore. Ah, ritorna Moreno del Signore, questo rocker, adesso è anche coach perché insegna anche a cantare, non solo, insomma si occupa di musica a 360 gradi, dà consigli musicali e quant'altro. Insieme ai Sette Grani ci presenta Neve diventeremo. Molto bene. Ascoltiamolo. È una canzone cantautoriale. Testimone. E si sognava che c'è un grande prato dove tu puoi respirare. E si sognava poi che i lupi ci leccavano le mani. Neve diventeremo, che poi si scioglierà col primo sole. Dentro ci cercheremo per poi trovarci nella terra come un fiore. la stessa strada e ricordare ogni parola, immagini infinite nella mente e nell'aria. E si sognava che c'è un grande lago dove tu ti puoi gettare, e si sognava poi che i corvi ci slegavano le mani, le mani. Neve diventeremo che poi si scioglierà col primo sole. Per poi trovarci nella terra come un fiore, come un fiore. Neve diventeremo che poi si scioglierà col primo sole. Eccoci qua, la è canzone. Molto elegante questo brano. Assolutamente. Molto delicato. La canzone affinato. Vada avanti, vada avanti. La canzone è ispirata alla storia di Rado Zuccon, partigiano, amico di famiglia dai Sette Grani, che hanno qui partecipato in questo brano, sopravvissuto alla deportazione nel campo di concentramento nazista di Buchenwald. Quindi insomma è stata riletta così questo brano, che fu già presentato, se non sbaglio, qualche anno fa, e quindi viene qui riproposto con questa nuova versione. Devo dire ci sta tutta, molto bravo. Il lavoro è stato curato ovviamente da Moreno Del Signore, già cantautore, produttore e vocal coach, come vi raccontavo prima, all'attivo diversi album, sia come voce della band dei Scomunica, sia invece come vero e proprio cantautore. Insomma, è la sua carriera, insomma, è proseguita. Complimenti a lui e un saluto a lui. A questo punto noi abbiamo ancora qualcosa da farvi ascoltare, vero regia? Marco, due brani, partiamo dal primo dei sì. Due Paolo con la P piccola, la A maiuscola e le O e le O minuscole ci canta Altrove, dopo Paoletti ce ne parla. Paolo Altrove. Mi fermo, grido e scappo, anche se è buio avanzo, confondevamo i brividi con i lividi. Fai sempre scacco matto, io per fortuna inciampo, perso tra mille sguardi troppo timidi. Giri di parole, copriamo il sole, non dirmi come, sto senza voce, rimaniamo fermi immobili. Un arco tra le braccia, una freccia in pancia, ti amo ma basta, basta farlo apposta, vestiremo solo incubi. Dovrei cercarmi altrove, senza sapere dove, ed è tutto così sbagliato, vado a capo, non provo emozioni, risento, ti risento però. Canzone che fa na na na na na na na na, una canzone che fa na na na na na na na na na. Non siamo di nessuno, si vive uno ad uno, persi sotto il temporale senza limiti. Se ci pensi tutto è andato, ricomincia da capo, con la voce a pezzi adesso fermati. Dovrei cercarmi altrove, senza sapere dove, ed è tutto così. Ti risento per ore. Sei una canzone che fa na na na na na na na na. Si chiama semplicemente Paolo firma con la Phonoplay questo singolo, che è poi il suo singolo di debutto, una canzone insomma che parla di stati d'animo di molti ragazzi di fronte alle incomprensioni e alle delusioni della vita. Devo dire, una voce da così imparare a conoscere, a riconoscere nel mondo dell'FM. Che dire, in bocca al lupo per questo giovanissimo ragazzo, come andrà a finire non si sa. Comunque insomma, gli facciamo auguri, come a tutti e a tutte. Esatto, insomma, gli auguriamo di tutto. Noi andiamo avanti a questo punto, siamo arrivati alla settima selezione musicale, che poi concluderà la prima parte, vero? Anzi, assoluti. Non abbiamo detto, non abbiamo salutato un po' di persone, dopo, vero? Saluti dopo. Lo facciamo dopo. 333 133 180 94 94 per i vostri short message. La nostra redazione è qui, che insomma aspetta i vostri messaggi. E a questo punto andiamo con la prossima, che concluderà questa prima parte. Vocal Blue Trains ci presentano Hotline Bling. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. I know when the hot light blinks, that could only mean one thing. Cause ever since I left the city, you got a reputation for yourself now. Everybody knows and I feel left out. Boy, you got me down, you got me stressed out. Don't be alone. Che dire, è una cover di un pezzo che molti di voi avranno riconosciuto, di Drake, qui in questa versione Sophisticated Music. Sì, è perché poi i vocal Blue Trains sono praticamente un gruppo vocale polifonico composto da 30 cantanti e musicisti e fondato da Alessandro Gerini. Mica pissi bau bau. Assolutamente, poi hanno già partecipato a delle colonne sonore, hanno girato un po' tutta l'Europa ricevendo grandi consensi, e prima di Natale avevamo proprio ascoltato uno dei loro brani proprio per le feste, e ci avevano presentato questo Alleluia. Ah, erano si loro, ricorda? Bellissimo, bellissimo, molto molto bello. E a questo molto punto bello. Che dire, che pubblicità. Questo nuovo singolo, piccolo break pubblicitario, rientriamo veramente a brevissimo. Non andate via. A Bologna ci sono più di 800 pizzerie, creative, gourmet, da sporto. Ma se io volessi provare il sapore di una pizza tipica napoletana? Te lo dico io, se vuoi gustare la pizza napoletana verace, c'è Donna Margherita, in via Lombardia 13C, nel quartiere Savena. E la pizza com'è? Ma stai pazziando, pizzaioli napoletani, forno a legna, ricetta tradizionale e materie prime campane. E non solo questo, ma di Napoli trovi anche l'atmosfera, sempre allegra, che mette buon umore. Wow, mi sta venendo voglia. E allora ya. Donna Margherita è aperta anche per asporto e domicilio. Cerca Pizzeria Donna Margherita sui social oppure chiamalo 051 54 44 22. Potremmo parlarvi dei materiali ricercati e durevoli, della linea e della forma dei nostri arredamenti, ma preferiamo raccontarvi come ci piace rendere la vostra casa unica e disegnata intorno a voi. Bertocchi Arredamenti, una grande passione per l'arredo dal 1964. Personalizziamo ogni vostro ambiente con falegnameria interna per adattare ogni arredo ai vostri spazi, con assistenza post vendita sempre presente e con i migliori brand nazionali come Stosa e Moretti Compact. Bertocchi Arredamenti è in via dell'Intagliatore 15 a Bologna e su bertocchiarredamenti.com. Bertocchi, ogni mobile, una storia. Al Volga non si arriva. Lo speciale di Walloon in 4 puntate per gli 80 anni della battaglia di Stalingrado. Dal 15 gennaio, ogni domenica alle 11. Fame e macerie sotto i mortai. Radio Città Fujiko è lieta di presentarvi Easy Pop. Conduce in studio Franco Paoletti. Regia del Bolognese Volante. Eccoci, rientriamo subito dopo il break pubblicitario insieme a Franco Paoletti che vi parla e ovviamente il nostro il nostro bolognese volante. Una volta stava solo e adesso insomma si è preso ampio spazio, devo dire la verità, però ci fa tanta compagnia e poi devo dire che piace tanto ai nostri ascoltatori, quindi è costretto a parlare e quindi è anche giusto darle spazio, vero regia? Paoletti? Va bene, no, raccontavo un po' la storia di come si è evoluto questo Easy Pop e quindi di come appunto andiamo avanti, si è allargato, va bene. E non solo andiamo avanti, non solo di fa ma anche di fatto, insomma, qualche chilo in più l'ha messo in questi anni. Ha finito Paoletti? Sì, ho finito, stavo a scherzare, come si suol dire. Beh, non me ne vogliate. Puntata numero 4 di domenica 29 gennaio 2023, Easy Pop. Stiamo qui per proporre in questo salotto musicale tanta musica indipendente e soprattutto nuovi artisti. Iniziamo questa seconda parte con un personaggio che non so se si chiami Medellin, si fa proprio l'aspirato, comunque per noi è Medellin, ci presenta La più grande. Non è più grande, non so cosa, però insomma è così il titolo di questo brano che appunto ci parla di qualcosa. Ascoltiamolo. Lo stai dicendo? Me ne sto da solo e tu mi chiami, mi preghi, poi vieni, mi vedi, ti siedi su questo marciapiede. Come Pitagora hai la chiave dei problemi, ma attenta baby, stai sulle punte dei piedi. Dici che mi ami ma non è così. Sei un'illusione come Salvador Dalì. Mi guardi dentro a sti occhi neri, ci provi, mi giuri, ma sto più chiuso del cubo di Kubrick. La sta galera sono il vaso, come la coca, me l'hai fatta sotto il naso. Tu m'hai trattato come un cane, sei la differenza che sta tra collana e collare. Resto incazzato come Harry Kane, resto fuori top ten, fumo nazionali come Gigan. Non c'è storia baby, il piatto piange, ti sto lontano e barricato come Assange. Quante volte mi hai promesso sotto questo cielo blu che mi amavi di più, che mi amavi di più. Di tutte le bugie che mi hanno detto sai, la più grande sei tu, grande sei tu. E le tue notti brave, io da solo non resisto, chiuso in casa, Chateau d'If, Monte Cristo e goodbye Jane, Elton John. E ho imparato che non tutto ciò che luccica è Dior. E ogni volta che te ne sei andata a replay, avessi un euro per ogni cazzata Bill Gates. Artista nel mentire con abilità, ma più che Michelangelo sei la pietà. E cancello le tue foto dal display, quando piovono ricordi Kiwi. Sfodero gli artigli come una pantera, ti sferro colpi più potenti di carnera. Adesso me ne vado via, non tornerò, non tornerò. Io esco dalla tomba di Landoc, mentre fumo questo calumè bella e rossa, mi riprendo la mia libertà, William Wallace. Quante volte mi hai promesso sotto a questo cielo blu che mi amavi di più, che mi amavi di più. Di tutte le bugie che mi hanno detto sai. sì sì, la più grande bugia ovviamente in questo caso ci presenta questo pezzo Medellin che ha ripreso a fare musica dopo un po' di tempo in cui ha lasciato un po' appunto la musica per poi ritornarvi grazie soprattutto al discografico milanese Demetrio Sartorio, che saluto perché insomma tante volte ci ha dato una mano, nel senso di ci ha mandato praticamente le schede dei suoi artisti e quant'altro, e poi perché comunque è un grande produttore anche lui, e poi praticamente perché, dicevo, Medellin è diventato si può dire virale, sì, è diventato, certo che si insomma, può dire, mica una parolaccia, vabbè, è diventato così un personaggio di culto soprattutto per chi frequenta i social, perché le sue imprese e le sue performance virtuose al pianoforte sono diventate proprio insomma cliccatissime, finché appunto Demetrio Sartorio se n'è accorto, ha detto ma sai cosa ti dico, che insomma le potenzialità ci sono, ritorniamo a fare musica e quindi ripensiamo al progetto, e così è rinato il progetto Medellin. Anzi, virale è una parola molto trendy, molto cool in questo momento. Allora va bene, e allora siamo noi, va bene, e allora complimenti a lui, e sono curioso, andrò così a cliccarlo anch'io. Nel frattempo viene a trovarci anche Alaska, Dicono di me. Mi sento strana e non so cosa ho. Cosa mi prende, perché non mi riprendo? Non sono felice come immaginavo. Pure un po' io me lo meritavo. A volte penso che vorrei smettere. A volte penso che non ho avuto niente. Dicono di me, sono troppo trasparente. Mi credo celeste e indifferente, mentre passa gente. In mente quei ricordi, sulla spiaggia per i tramonti. Vorrei ancora brindare a quello che ci ha fatto stare bene. A quello che ci ha fatto stare bene. Faticavo per non pensare, ascolto musica per stare bene, vorrei isolarmi ed evitare chiunque non voglia più lasciarsi andare. A volte penso che vorrei smettere. A volte penso che non ho avuto niente. Eccoci qui, eccoci qui, assolutamente no, stavo raccogliendo informazioni su Alaska, Dicono di me. Questo è il brano di questa cantautrice siciliana, classe 98, poi si trasferisce a Roma a studiare alla St. Louis College, college appunto specializzato in musica, e devo dire che lei ha imparato lì anche a scrivere i suoi pezzi, e devo dire che anche le sue canzoni sono un misto tra indie pop con testi molto interessanti in italiano. È una voce così sottile però interessante, che poi alla fin fine cattura, soprattutto nell'FM si sviluppa molto bene, cattura. Bene, detto ciò, abbiamo anche qualcun altro che scalpita, ovvero sia Filippo Ferrante, ci presenta L'orizzonte delle mie paure. Lacrime che bagnano il mio viso. capire il mio perché. Perché sono storie che non lasciano in me. L'anima mi dice ancora no. Perché ancora no. Non sono ancora spento, naufragando dentro il mare del tuo cuore. Ho imparato a navigare nel mio cuore, l'ho saputo attraversare e nel punto più profondo sei tornata per salvarmi dalle onde in un secondo. Tra me e te ora c'è l'orizzonte delle mie paure. Non è stato facile per me riuscire a staccarsi da te, ma adesso che sei qui con me, perché sono storie che ora lasciano scuote ancora no, perché ancora no, non sono ancora spento, naufragando dentro il mare del tuo cuore. Ho imparato a navigare nel mio cuore, l'ho saputo attraversare e nel punto più profondo. Filippo Ferrante, l'orizzonte delle mie paure, direi una classica ballata proprio, classicissima. Assolutamente, ma lui viene da, forse da un passato veramente passato. Filippo Ferrante, un cantautore pugliese attivo già di diversi anni nel panorama musicale italiano e ha così avuto diverse esperienze artistiche di diversi generi. Lui insomma ha proposto il pop rock anglo-americano, il cantautorato fino ad arrivare alla indie, quindi aveva degli così dei contratti dalle major al è passato poi alla indipendenza, alle indie vere e proprie. Però pensate un po', questo artista poi ha trovato una sua strada molto singolare e appunto non ha mai smesso di fare musica, tant'è vero che ha avuto più consensi all'estero che poi in Italia negli anni passati. E pensate che i suoi passaggi radiofonici soprattutto in Repubblica Ceca, lui è veramente un divo, è impressionante veramente che tanti artisti italiani trovino veramente l'America in altri paesi piuttosto che a casa propria. E la voce c'è, insomma, è molto bravo, è incredibile scoprire poi queste cose. Bene, dopo che abbiamo scoperto questa incredibilità proseguiamo sì. Con Danny Band ci presenta La gente che, dopo ci spiegherà di che gente si tratta, Paoletti. Ormai qui non ci sente più nessuno, in questa terra abbandonata dal destino. Politici corrotti, ponti ormai distrutti da chi parla di lavoro e società. E chi parlerà di quell'uomo che fugge ogni giorno dai problemi e la realtà. Non sorride più perché ormai lo sa che domani inizia un altro giorno in questa nuda verità. E invece noi siamo qua, siamo la gente che non ci sta e quindi noi siamo qua e cantiamo come le rockstar. Invece noi siamo qua per la gente che non ci sta e quindi noi siamo qua e cantiamo come le rockstar. Parara, parara, parara, parara, parara, parara, parara, parara. Proteste per questo green e poi si fanno le foto coi filtri. Giudicare la vita degli altri, ci si scorda persino dei figli. Della mamma che ormai è una miss e fa i balletti per essere trash. Alla pensione che ci arriverà di sicuro saremo già morti. Saremo già morti. Ma per stavolta io resto in piedi. Questo è il mio sogno, la mia vita e tu non parlarne più. We'll per la gente che non ci sta, e quindi noi siamo qua e cantiamo come le rockstar. Com'è possibile solo pensare che forse è meglio piuttosto la morte che lottare in questa prigione con le unghie, il sangue e il cuore? Questo racconto il mio bambino quando mi guarda mentre canto. Questa nazione è la più bella del mondo, abbasso il capo, rido e piango. Beh, la canzone della gente che non ci sta, abbiamo scoperto, Paoletti. Eh sì, è proprio così, una canzone un po' di protesta. Un po' non conformista. Esattamente. A scriverla è Donato Fanelli, che è il frontman poi di questa band, che si chiama appunto Danny Band, come Donato appunto Danny Band. Coloro appunto, anzi questi qui hanno voluto praticamente proporre la loro musica, e devo dire che sono già famosi nell'Italia pugliese, non solo, e poi soprattutto sui social. Una band insomma piena di energia, che è tra suoni funky e dance, insomma porta un po' di freschezza. Tra l'altro vado a segnalarvi che la band è una appunto delle band che si è esibita anche a Casa Sanremo Live Box, Live Box 2022, quindi insomma complimenti a loro, che insomma sono stati selezionati nel mondo sanremese. Bello? Siamo di Sanremo? Non ancora. Va bene. Va bene, va bene. Va bene, cosa posso dire? Lei è uno, insomma, anti. Va bene, direi di chiudere qui e di proseguire con prossima persona. Tornano prossima a trovarci le Wasabi. Esattamente. Band composta da ragazze. Esatto, la prossima appunto selezione è Wasabi. Ci presentano Forze Contrapposte, il loro nuovo singolo uscito quindi da un EP, dopo ce ne parlerà, Esattamente, ascoltiamole. Wasabi. Wasabi ci propongono un estratto dal loro ultimo lavoro, EP anche per loro, forze contrapposte. Paoletti, esattamente, esattamente così. Sono praticamente un trio made in Roma, molto bravo e molto brave, soprattutto nel kit fotografico che ci hanno mandato in redazione. Devo dire, sembrano le tre fatine, appunto, della bella, bella addormentata, insomma, quelle che davano un aiuto, insomma, alla protagonista della fiaba. Non so se lei ha visto, no, le fatine colorate, una di viola, una di celeste, una in verde. Beh, bellissimo, devo dire, questa, questo belle richiamo. Comunque l'LP, anzi l'EP in Londra, che è stato licenziato da poco, si intitola Verde, dal quale appunto abbiamo estrapolato questo singolo molto molto divertente, molto bello. Verde l'avevamo proposto, titola, esatto, poco tempo fa. Certo, si intitola Forze Contrapposte, questo nuovo singolo. Sono un po' le Go-Go's, insomma, richiamano un po' le Go-Go's, per dire, insomma, italiane, un gruppo femminile. Sì, sì, devo dire, ci sono riuscite davvero, perché insomma sono molto divertenti. Sono bravi, loro sono bravi. Vogliono, oltre ad essere brave, loro vogliono portare divertimento, e lo hanno fatto e lo stanno facendo con questo EP. Devo dire, il bersaglio è stato raggiunto. E noi diciamo loro brave, brave. Intanto, brave, un saluto, brave, a Riccardo di Palermo, che ci ha messaggiato qui. Va bene, è un 3, saluto. 3, salutiamo 380 94 94. Salutiamo anche la Sicilia, ok? Allora approfitto per salutare Fedora, e a questo punto, insomma, chi abbiamo ancora? Adesso abbiamo una nuova scaletta, proposta indie, Frontera con Indaco. Lasciami provare, sono qui per questo. Ogni volta nasco ed ogni volta cresco. Ogni cosa che amo la calpesti, io ti detesto. Nuova dimensione, voglio ritornare dove tutto era proibito, dove tu mi hai indebolito. Come ghiaccio in mezzo al sale, noi persone sole nascondiamo il dolore. Proverò a cambiare con il mio colore indaco, indaco. Come posso io cambiare questo mondo stanco, se sono solo un bambino sopra questo palco pieno di sogni in cerca di spazi come animali in branco? Noi persone sole nascondiamo il dolore, proverò a cambiare con il mio colore indaco, indaco. Crisi ci piace parlare, mentire fa più male. Proverò a cambiare indaco, indaco. Sei dentro me, dolore senza regole. Ora mi guardo e vedo che ho il cuore indaco. Indaco, Frontera. È un personaggio davvero giovane, ma dalle idee chiare, perché si rifà un po' al glam regia. Sta dicendo, ha capito il glam rock, glam, a David Bowie, sì, non lo so, insomma, a Elton John, così, non riusciva glam. Glam, ecco. Oh. Praticamente lui ha praticamente origini salentine, però insomma poi ha vissuto al nord e ha praticamente sempre coltivato la sua parte musicale, tant'è vero che già da giovanissimo decide così passare alla musica, però la voleva poi così abbinare al gusto glam. Devo dire che come personaggio non passa inosservato, perché ha questi capelli colorati, con questi grandi abiti mentre si esibisce, abiti molto colorati, e devo dire che questo è il suo nuovo singolo. Il precedente ha già avuto dei consensi da parte soprattutto degli addetti ai lavori, insomma, come dico io, se sono rose fioriranno. Complimenti. E quinta volta che fa tira fuori ste rose. Va bene, nel senso che gli auguriamo un bocca al lupo. Da Frontera passiamo, regia, a un altro brano nome. Dance, Daniele Battaglia e Just Wanna Feel You, si balla. Ascoltiamolo. And so my troubles away. Can't be worried about who's watching me. I'm feeling free. I'm feeling free. Have a lot of fun today. Order the bottle of strength. Dance all my troubles away. Can't be worried about who's watching me. Se Paoletti ci vuole parlare di questo brano, noi siamo qua che l'ascoltiamo, siamo tutto orecchi. Più che altro voglio parlarvi del personaggio Daniele Battaglia. Non è praticamente il noto conduttore radiofonico di punta a Radio 105, Daniele Battaglia, che è poi è nato a Reggio. Noi parliamo invece di Daniele Battaglia, nato a Trapani, studente di filosofia e scienze etiche, ex chitarrista, proviene dal blues rock, finché appunto si decide di occupare appunto il suo tempo di occuparsi di musica elettronica in generale e di techno music, house and soul, finché praticamente arriva a incidere diversi brani, collabora con diversi artisti italiani ed esteri e insomma si occupa del divertimento delle sale da ballo, dei clubbing, per così dire. Quindi complimenti a lui. Questo singolo è già insomma in vetta alle classifiche indie, che dire, complimenti, è vero? Poi senta come suona bene Daniele Battaglia, no? Daniele Battaglia, ce l'abbiamo già nell'orecchio. Ce lo dice lei. Quindi, io saluto Marzia che ci ha messaggiato. Sì, salutiamo. Salutiamo. Ringraziamo molto, ci ha detto siete fortissimi. Beh, grazie Marzia. Beh, meno male. Meno male. Complimenti, quindi risalutiamo anche i Ricchi da Palermo e tutti coloro che ci hanno ascoltato. Certo. Speriamo di aver fatto trascorrere. Siete veramente in tanti. Un'oretta spensierata in allegria. Potete riascoltarci, no? Sui social, in replica. Potete riascoltarci sui social, ma in realtà sul sito della radio www.radiocittafugico.it, dove avete tutte le notizie della radio, tutti i programmi. della radio, e potete trovare anche gli altri, non soltanto il nostro, gli altri, i podcast delle altre puntate. Certo, le interviste e quant'altro, i redattori, insomma, vi c'è un mondo. Lasciamo alla programmazione di Radio Città Fujiko, che prevede tra poco le corrispondenze della nostra carissima amica Dani Coraucci, che salutiamo. Sì, certo. E non ci resta che augurarvi una buona domenica e bye bye dal Bolognese Volante. E da Franco Paoletti, bye bye. Bye bye. Avete ascoltato il C-Pop, che vi dà appuntamento a domenica prossima, alla stessa ora, e vi augura un buon proseguimento sulle frequenze di Radio Città Fujiko. Da-da-da.